Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buona giornata a voi, grazie per essere in nostra compagnia. Andiamo subito ai titoli del nostro sommario, ma abbiamo in regia la parte tecnica, Pietro Lacorte, che ringrazio, Laura Vanossi in redazione. Siamo pronti per ascoltare i titoli di oggi. Nuoto, uno sport dai 0 ai 99 anni. Malattie rare, una sfida globale. Fitness per potenziare i muscoli, ma anche il cervello. Bene bene, oggi ci tuffiamo in piscina, parliamo di nuoto, uno degli sport più completi o forse il più completo. Giro subito la domanda al nostro amico del venerdì, che è già qua accomodato in studio con me, il dottor Franco Confalonieri, medico e responsabile del centro DDS di Settimo Milanese. Buongiorno e benvenuto, la metto subito al lavoro. Sì, il più completo, considerando anche che è il meno traumatico, quindi quello con minori effetti collaterali. Da questo punto di vista direi di sì. Lo sport che unisce di più, completezza negli effetti positivi e minimi rischi dal punto di vista dei potenziali effetti negativi. Uno sport per tutte le età? Direi di sì. Magari con qualche riserva per i neonati, che lo fanno spesso e volentieri, ma su questo aspetto io qualche riserva ce l'ho. Sicuramente poi fino ai 100 anni è lo sport di gran lunga più indicato, fatte salve alcune patologie di cui magari parleremo più avanti che lo controindicano, ma siamo in situazioni molto particolari. 800 24 0024 se volete parlarne con noi, messaggi come sempre al 349 238 6666. Dottor Confalonieri, allora questa è la sua posizione, la confrontiamo con quella di Filippo Magnini, grandissimo campione, anche lui ci dà qualche indicazione sul nuoto, su come praticarlo. Lo ha raggiunto per noi il collega Dario Ricci, sentiamo. Scegliere il nuoto perché comunque è uno sport completo, uno sport che fa muovere tutti i muscoli, uno sport che ti modella un bel fisico, le spalle, ti raddrizza le spalle, quindi comunque stai in acqua, quando inverno fai un po' freddo, ma quando è caldo ti abbronzi, quindi anche per quello, dai. Diciamo che comunque bisogna poi vedere il livello dell'amatore, perché in effetti il nuoto non è uno sport facile, sei comunque in un elemento che non è tuo, l'acqua, quindi io dico sempre di non arrivare al muro, diciamo, dall'altra parte nella virata troppo stanchi, morti, quindi avere dei ritmi tranquilli, non partire forte, troppo forte per poi morire alla fine, ma mantenere un ritmo costante per tutto l'allenamento, che poi può essere un chilometro, due chilometri o 15 chilometri se sei un professionista, poi ognuno sceglie la sua strada. Sicuramente fare tutti gli stili, non cimentarsi solo sullo stile libero, solo sulla rana, ma nuotare un po' tutti gli stili, così il tuo corpo fa dei movimenti diversi. Dottor Confalonieri, allora uno sport completo, modella il fisico, e Filippo Magnini diceva bisogna anche fare un po' tutti gli sport. Vorrei capire lei che posizione ha a riguardo. Sì, sottolineerei tre aspetti di quanto ha detto Filippo, che ricordiamo è stato due volte campione del mondo dei 100 stile libero, uno dei più grandi nuotatori nella storia italiana. Sicuramente uno dei grandi vantaggi del nuoto è che utilizziamo tutta la muscolatura, lo utilizziamo in modo armonico, e quindi questo favorisce lo sviluppo di un bel fisico. Adesso i nuotatori sono diventati quasi dei sex symbol, e questo è un aspetto non trascurabile. E un altro aspetto sicuramente interessante e importante che ha sottolineato è che lo facciamo in acqua. Questo da un lato crea delle difficoltà, perché noi siamo abituati a muoverci in modo più o meno intelligente, ma nell'aria facciamo molto più fatica a muoverci in modo coordinato e intelligente nell'acqua. Però questa è anche una grande potenzialità del nuoto, per esempio nella riabilitazione. Il nuoto è uno strumento riabilitativo eccezionale, magari accenneremo dopo a questo aspetto, proprio perché si svolge in acqua. Ma proprio perché si svolge in acqua è molto difficile, soprattutto per chi inizia tardi, imparare tutti gli stili. Quindi io in questo mi sento di dissentire, almeno in parte, da Filippo, dicendo ok, se iniziamo presto e siamo particolarmente dotati, impariamo tutti gli stili perché lavoreremo in modo diversificato. Se no, accontentiamoci di fare sufficientemente bene uno stile per nuotare sempre quello, sfruttando gli effetti positivi del nuoto per l'apparato cardiovascolare e per l'apparato respiratorio. Quindi se uno piace fare stile libero piuttosto che rana, può, soprattutto se sa fare bene soprattutto quello stile, imposterà degli allenamenti o delle nuotate prevalentemente su quello stile, poi per ottenere dal nuoto gli effetti positivi che hai per esempio dalla corsa, dalla bici o da tutte queste attività. Arri- arrivano già i messaggi al 349-238-6666. Molti ascoltatori sottolineano la fatica di andare in piscina, proprio la fatica del movimento, e anche un po' il fatto che andare in piscina e continuare vasca su vasca sia un po' noioso. In linea con noi abbiamo un grandissimo campione di nuoto, Marcello Guarducci. Benvenuto, buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno, io la metto subito al lavoro e le chiedo di rispondere agli ascoltatori che dicono: nuoto, fatti, mi piacerebbe sì, ma è faticoso e anche un po' noioso andare in piscina. Allora, premesso che la fatica denota una carenza di conoscenze tecniche, perché io dico sempre e cerco di trasmettere questo messaggio quando sono in piscina a fare il direttore di impianti. Ai ragazzi dobbiamo trasmettere il piacere di stare in acqua. Il piacere si fa nel momento in cui si ottiene, quando il corpo scivola dentro l'acqua senza sbattere, e quindi si ha la capacità di poter, attraverso gli esercizi, di poter scivolare e non sbattere e rompere l'acqua. Quindi il messaggio che dobbiamo dare alle persone: lo sforzo non è, e l'avanzamento dentro l'acqua non è commisurato alla forza che noi mettiamo, ma semplicemente alla capacità di spostare in avanti il nostro corpo dentro l'acqua. E questo è un piacere fisico che io ho e cerco di trasmettere agli altri, in quanto una cosa è fare l'attività agonistica, un'altra cosa è nuotare per il benessere fisico. Il benessere fisico è tutta un'altra cosa. Quindi bisogna acquisire una certa tecnica per ritrovarsi bene in acqua senza fare troppa fatica, Marcello. Esatto. Allora, praticamente noi, come sostengo spesso, in acqua per stare a galla è sufficiente avere lo stesso sforzo che la massaia fa sul tavolo per spargere la farina. Con quel movimento noi stiamo a galla, in posizione orizzontale. Noi dobbiamo scivolare in posizione orizzontale, perché l'acqua è un elemento che ci sostiene e ci fa galleggiare, perché noi siamo fatti il 70% di acqua, quindi è acqua dentro acqua. Il nostro corpo ha necessità, per avanzare, per fare del movimento, deve fare dei movimenti che siano commisurati allo spazio che dobbiamo avanzare. Se noi facciamo 27.000 bracciate per fare 25 metri, è superfluo, sprechiamo energia e sprechiamo soprattutto ossigeno. Dal punto di vista tecnico, sì? La cosa che dico sempre è quella di fare il movimento sia di recupero sia dentro l'acqua molto lentamente. Dottor Confallonieri, voleva intervenire? Sì, sono d'accordo. Io di solito, soprattutto con gli uomini, paragono l'approccio con l'acqua con l'approccio a una donna. L'acqua dobbiamo capirla, dobbiamo volerle bene e dobbiamo accarezzarla. Se l'acqua l'aggrediamo, verremo respinti e sentiremo fatica. Se l'acqua cerchiamo di capirla, di interpretarla, di accarezzarla, di adattarci alla sua dimensione, sicuramente riusciremo a trarne beneficio, a trarne gioia, a trarne godimento, a trarne benessere. Quindi sono totalmente d'accordo con quanto diceva Marcello. Allora ringraziamo Marcello Guarducci che è stato con noi. Grazie, buona giornata, spero buona di sentirla presto. A disposizione. Grazie. 800 24 0024, ci scrive Joel di Milano. Oggi ci sono i lettori MP3 subacquei, ci si annoia di meno. Lei si annoia, dottor Confallonieri? Non qua con noi, ma quando nuota? Con voi assolutamente. No, oddio, l'MP3 può servire a rendere un po' meno noioso il nuoto, però io credo che la persona che si annoia nuotando debba scegliere un altro sport, lo voglio dire molto chiaramente. Il nuoto è uno sport per tutti dal punto di vista fisico, non è uno sport per tutti dal punto di vista psicologico, nel senso che gran parte delle persone provano piacere anche in questa dimensione solitaria di rapporto con se stessi e con l'acqua, che come abbiamo detto più volte è un po' il gioco primordiale, e non provano né noia né fatica. Allora il nuoto è uno sport per le persone che non provano noia. Le persone che hanno bisogno di artifici per sopportare l'acqua e il nuoto cambiano, hanno tante alternative, ne abbiamo parlato tante volte, facciano un altro sport. 824 0024, voglio una risposta veloce per un ascoltatore che scrive: mio figlio, quasi 11 anni, alto e magro, con crescita veloce, pratica pallavolo, due allenamenti a settimana di 2 ore. Mi consiglia di fargli fare anche nuoto o pallavolo per evitare i problemi di schiena che ha avuto suo padre alla sua età? Quindi l'altra volta noi abbiamo abbinato gli sport. Praticamente Daniela ci dice, è giusto, soprattutto anche perché Magnini diceva che il nuoto, e noi basta vederli, questi nuotatori, modella. Beh, una domanda bellissima, tra l'altro abbiamo degli ascoltatori preparatissimi perché ci segnalano che sport fanno e anche a che livello sono di accrescimento, che è un altro tema fondamentale, ci dice che un ragazzo ha crescita veloce. Direi che l'abbinamento fra il nuoto e la pallavolo è l'ideale, innanzitutto perché impegniamo i muscoli in modo diverso e gruppi muscolari diversi, e poi perché tutto ciò che andiamo a sovraccaricare con la pallavolo andiamo a scaricarlo con il nuoto. Quindi, siccome il ragazzo ha bisogno di fare almeno 4-5 giornate di sport alla settimana, abbini il nuoto alla pallavolo e ne avrà grande giovamento anche per il suo rendimento nello sport principale, che appunto è il volley. Allora, sport per tutte le età, indipendentemente dalla vostra età, chiamateci, il dottor Confalonieri vi darà consigli per praticarlo in tutta sicurezza e per avere i migliori risultati. Una mela al giorno. E adesso voltiamo decisamente pagina, parliamo di una giornata molto importante. Domani, sabato 28 febbraio, si celebra la giornata mondiale delle malattie rare. In linea con noi per capire quello che si è fatto e anche, soprattutto, i progetti futuri, la dottoressa Domenica Taruscio, direttrice del Centro Nazionale Malattie Rare dell'Istituto Superiore di Sanità. Dottoressa Taruscio, buongiorno e benvenuta. Buongiorno, grazie. Buongiorno a voi. Dottoressa Taruscio, sappiamo che rare è un aggettivo che sta stretto, sono oltre 6.000. Le malattie rare che possono colpire bambini, adulti e anche anziani. In Italia sono 1,5 milioni le persone che sono affette da una malattia rara. Quindi questo è un aggettivo che ormai è destinato, per fortuna, a cadere in disuso. Dottoressa. Sì, questo è vero. Cioè, raro si riferisce alla singola patologia. Abbiamo detto, infatti, lei giustamente ha detto che ci sono più di 6.000 malattie rare, ma l'OMS addirittura parla di circa 7.000. Ora, il numero preciso non lo sappiamo. Sicuramente quello che conosciamo è che singolarmente presa una patologia è rara perché colpisce pochi cittadini. Nell'insieme, essendo poi così tanto, il gruppo è molto numeroso, quindi 5, 6, 7 mila, è chiaro che sono tantissimi cittadini colpiti, non solo a livello nazionale, che parliamo quindi di stime di 1,5 milioni di cittadini colpiti, ma addirittura a livello europeo, parliamo di 15 milioni, ma forse anche di più. E chiaramente è chiaro che è un problema molto molto importante, che le strutture sanitarie pubbliche devono farsene carico a tutti i livelli, partendo dalla ricerca scientifica fino a evidenziare percorsi diagnostico terapeutici appropriati, tempestivi diagnosi, ma anche trattamenti assolutamente innovativi e destinati anche a dare delle soluzioni definitive a questi pazienti. Ecco, è importante sottolineare che la qualità della vita di queste persone spesso è veramente molto molto scadente, perché sono isolate, sono persone che non hanno sostegno anche sociale, non hanno sostegno dai servizi. Quindi come Istituto Superiore di Sanità, che è un istituto appunto di ricerca scientifica ma anche di sanità pubblica, noi ci siamo fatti carico di questo problema da tanti anni, abbiamo infatti istituito il Centro Nazionale Malattie Rare, di cui io sono direttrice, dove ci facciamo carico dalla ricerca ma anche all'ascolto attivo dei cittadini con questi problemi, sia mediante un telefono verde. Sì, dottoressa Taruscio, il numero verde, allora lo diamo subito, 889 69 49, a cui ci si può rivolgere per avere una risposta, per avere un consiglio, un servizio, un aiuto. Dicevo, l'istituto è impegnato anche però da un punto di vista nuovo, la medicina narrativa, cioè dare ascolto alle persone con problemi di questo tipo è molto importante. Dare ascolto e dare la parola, dare dignità a questi pazienti e farli partecipare a tutti gli effetti alla vita culturale di un paese. Chiudiamo anche con una buona notizia che fa ben sperare per il futuro. Infatti la sfida per combattere le malattie rare diventa globale. Nasce la Carta Mondiale, proprio proposta in questi giorni. Certamente. Ecco, proprio all'Istituto Superiore di Sanità due giorni fa si è concluso il congresso mondiale sulle malattie rare e farmaci orfani, che abbiamo organizzato e ospitato con molto piacere. Abbiamo quindi avuto nel nostro istituto l'onore di ospitare questo congresso con scienziati, ricercatori, medici, ma anche rappresentanti dei pazienti provenienti da tutti i continenti. Abbiamo siglato quindi un accordo di elaborare una carta mondiale per fare collaborazioni transnazionali senza frontiere, che vadano dalla ricerca all'assistenza, alla cura e alla ricerca di nuovi farmaci. Dottoressa Taruscio, io la ringrazio per essere stata con noi, le auguro buon lavoro e buona giornata. Grazie. Grazie, buona giornata anche a voi. pronto soccorso. Eccoci, siamo in piscina insieme al dottor Franco Confalonieri. Oggi parliamo di nuoto. Dottor Confalonieri, abbiamo Gaetano e Mimmo che ci aspettano al telefono. Volevo farle due domande. Una di Federico di Urbino, che ci chiede se il nuoto è indicato per chi ha la pressione alta. E l'altro invece di Andrea, che ci chiede sempre se il nuoto è indicato per persone che soffrono di pubalgia. Allora, sicuramente sì, per problematiche di ipertensione, in quanto un esercizio fisico di tipo aerobico, quindi favorisce la circolazione e tende a ridurre la pressione. Attenzione però, perché abbia problematiche cardiovascolari diverse, perché comunque l'immersione del corpo in acqua è causa di stress a livello cardiovascolare, quindi devono affrontare il nuoto o comunque qualsiasi attività in acqua con un minimo di prudenza. Ugualmente sì, direi, per la pubalgia, perché non c'è il sovraccarico da microtrauma tipico di tutti gli altri sport. Magari qui eviterei di nuotare a rana, in quanto la rana crea uno stress maggiore della muscolatura coinvolta nella patologia della pubalgia, quindi preferirei il dorso o lo stile libero. Quindi possiamo dire anche ai nostri ascoltatori, se hanno dei problemi chiamateci, perché consiglieremo il facciamo tipo un programma di... su misura. Bravo, il tipo di stile più adatto, quello da evitare, quello esatto. Da accompagnare, eccetera. Gaetano, buongiorno, è arrivato buongiorno. Il suo momento. Grazie, volevo fare due domande. Sì. La prima, ho sentito in trasmissione che il dottor Confalonieri ha espresso qualche riserva nei confronti del nuoto per i neonati. Volevo sapere il perché ed eventualmente a che età consiglia di fare iniziare questo sport da parte dei bambini. Sì. La ringrazio. Grazie. Vabbè. Gaetano, dottor sì, Confalonieri. Sì, un aspetto molto importante. Ho espresso qualche riserva in questo senso. Il nuoto per i neonati va benissimo innanzitutto se il neonato è contento di farlo. Non dobbiamo minimamente forzarlo nel portarlo in piscina, come capita spesso. E questo è un aspetto importante. Secondo aspetto, attenzione, il nuoto per i neonati è importante soprattutto perché arricchisce e migliora la relazione fra il neonato e i genitori. Quindi da questo punto di vista la condivisione di questa esperienza in acqua migliora il rapporto fra il neonato e il genitore. Non ha nessuna utilità rispetto a un'acquaticità in età infantile e tantomeno rispetto alla capacità di apprendere a nuotare rapidamente da bambini. Non è che se li buttiamo in piscina no. A tre mesi diventano da questo punto Magnini di vista, anche se appunto vado un po' contro i miei interessi, perché tra l'altro io gestisco degli impianti sportivi, però mi sembra corretto e onesto segnalare questa cosa. Perfetto da un punto di vista relazionale, non è utile per imparare a nuotare prima. Andiamo nella provincia di Imperia. Maurizio, eccoci. Buongiorno. Buongiorno. Io devo fare i complimenti innanzitutto, perché siete veramente molto ma molto bravi. E grazie a voi io ho perso 10 kg. Wow, bravo. Grazie. Ho iniziato 2 anni fa con un piano di alimentazione corretto, consigliato da uno specialista, e ho iniziato a fare sport, grazie al dottor Confalonieri. Mamma mia, gli metteremo dei santini. Maurizio, lei che sport pratica? Ma io, avendo dei grossi problemi di vista, faccio ginnastica in casa, nel senso che ho una cicletta e una panca per gli addominali e ho notato dei grossi risultati. E adesso volevo andare in piscina e le domande sono due. Volevo sapere subito con quante vasche più o meno iniziare. Sì. E poi se si deve andare a stomaco pieno, insomma, non sì, mangiando sì. Chissà che cosa, oppure a stomaco vuoto. Grazie Maurizio. Dottor grazie. Confalonieri, lei la vedo proprio soddisfatta e fa bene, siamo ammetto, molto contenti. Maurizio ci dà grandi soddisfazioni, devo dire non solo lui, perché molti dei nostri ascoltatori ci scrivono e insomma questi venerdì dell'attività sportiva in qualche modo cominciano aiutano. Cominciano a diventare una sana abitudine. Ecco, Maurizio ci dà soddisfazione anche perché ha avuto un'idea assolutamente intelligente, cioè abbinare l'allenamento degli addominali e la cyclette con uno sport che impegna prevalentemente la parte superiore come il nuoto, quindi sì. Come integrazione è ok. Con quante vasche cominciare? Io direi con quanto tempo cominciare, quindi l'ideale è cominciare con 20-30 minuti di attività e poi se siamo dei nuotatori principianti non c'è problema, facciamo una vasca, ci fermiamo 15-20 secondi, poi un'altra vasca, poi un'altra vasca. Questo è un consiglio che do a tutti, piuttosto che fare tante vasche consecutive nuotando male o provando molta fatica, meglio fare poche vasche con pause brevi ma frequenti. Quindi è il tempo che non il numero delle vasche. L'allenamento, e però da un punto di vista tecnico è meglio fare tante vasche con pause frequenti. Meglio mangiare qualcosa prima che arrivare a digiuno, se non ci sono problemi digestivi, dei carboidrati complessi, una crostatina, una brioche, qualche biscotto sono l'ideale. Tutto dolce? Beh, i carboidrati tendenzialmente sono dolci. No, mi dice crostatina, biscottino. Io preferisco il salato, ecco. Assolutamente. Però il salato Maurizio spesso... Maurizio abita a Imperia, un pezzetto di focaccia gliela lasciamo mangiare. Purtroppo lì c'è una percentuale di grassi elevata e l'assorbimento è molto più lento. Siamo in costume olimpionico con cuffia, dottor Confalonieri, facciamo finta di essere in palestra perché oggi parliamo di nuoto. Volevo leggerle subito dei messaggi che ci aspettano. Lucia da Roma ci scrive: andiamo al sodo, dottor Confalonieri, per dimagrire, la scelta giusta? Sì, è la scelta tutto giusta, questo silenzio, nel allora senso uno che fa è una scelta in linea niente. Con le altre attività di tipo aerobico come il ciclismo, la corsa, lo sci da fondo e via dicendo. Va bene, non basta nuotare per dimagrire, però ottimizza eventualmente la scelta di una dieta. Diciamo che in un'ora di nuoto con un impegno medio noi riusciamo a consumare intorno alle 600 calorie, quindi... Buono. Possiamo eliminare un piatto di pasta e due dolcetti, oppure possiamo mangiarli sapendo che non ingrasseremo. Almeno due volte alla settimana? Minimo sì. E noi non guardiamo le vasche ma il tempo. Esatto. Ok, andiamo a Marco, ci scrive da Lecce. Nuoto o palestra? Dipende. Nuoto e palestra. Tutte e due. Tutte e due, magari anche nella stessa giornata. Prima del nuoto un quarto d'ora, 20 minuti di palestra. Prima del nuoto un po' di riscaldamento anche a corpo libero, per esempio, potrebbe essere utile. E poi il nuoto. Con la palestra potenziamo in modo selettivo i muscoli. Con il nuoto li potenziamo in modo globale e lavoriamo in modo efficace anche sul sistema cardiovascolare. Il mio problema è il ginocchio. Posso fare della riabilitazione in acqua? Ci scrive Gianni da Verona. Assolutamente sì. Questa, ecco, diciamo che l'acqua è raccomandata per tutte le età e in tante dimensioni. Non c'è solo il nuoto, c'è la ginnastica in acqua, c'è la riabilitazione. L'acqua è straordinaria dal punto di vista riabilitativo perché ci consente di far lavorare il muscolo senza sovraccaricare l'articolazione. Quindi certamente sì. Mimmo ci chiama dalla provincia di Reggio Emilia, 824 0024. Buongiorno Mimmo. Buongiorno, buongiorno a tutti e grazie per lo spazio concesso. Io avrei bisogno di avere risposta a due domande. Uno è il mio problema. Io premetto che non sono un delfino. Dunque, io soffro di problemi di mal di schiena nella zona lombare. E mi capita delle volte, quando nuoto, specialmente nello stile rana, che ho dei dolori acuti alla schiena. Sì. Poi l'altra domanda è questa. Mio figlio di 6 anni quasi, lo porto in piscina. Sì. Non fa dei grandi progressi. Ma lui vuole continuare ad andare in piscina. Vorrei sapere se devo continuare a spronarlo o dargli del tempo, il tempo che gli serve, che necessita. Ma lui piace, vero Mimmo? Sì, lui vuole andare. Io dico non ti porto più in piscina, ma perché? Lui vuole andare. Perché non vuole portarlo? Beh, guardi che è piccolo, no? Dottor Confalonieri, bisogna dargli tempo. A lui piace. Sì, allora partiamo dal figlio. Allora direi facciamoglielo fare, non mettiamogli pressione e magari abbiniamo il nuoto, che è uno sport completo, individuale, con certe caratteristiche fisiche e psicologiche, con un gioco di squadra come il calcio, la pallacanestro, la pallavolo o quant'altro, che sono più divertenti e che vanno a migliorare altre qualità. Ecco, questo è un po' il mio consiglio. Rispetto alla schiena direi che se ci sono problematiche a livello lombare sicuramente la rana è da evitare. Quindi non è casuale che la rana crei dei problemi. Quindi se il nostro ascoltatore è in grado di nuotare dignitosamente a stile libero a dorso, privilegi questi stili e il sovraccarico a livello lombare, proprio legato alla posizione, non solo al reclutamento muscolare, sarà molto molto minore. Allora, stai entrando nella nostra piscina, ancora non sei tuffata, Viola Valli. Ciao Viola! Buongiorno a tutti. Grazie per essere con noi. Allora, prima che tu ti tuffi, ma tu preferisci il mare comunque? Sicuramente il mare, le acque libere, il lago, il mare, però principalmente il mare. Allora, comunque, da te, come che sei una grande campionessa, io direi, vorremmo dei consigli, perché campionessa nonostante tutto, perché tu, Viola, amavi anche soprattutto studiare, ti sei comunque allenata, non hai dovuto rinunciare allo studio, hai raggiunto ottimi risultati, ma se vogliamo in tempi un po' più in ritardo rispetto ai tuoi coetanei, e poi tu non hai un fisicone, insomma sei gracilina, piccina, per cui hai dovuto comunque, no, accettare questa sfida con l'acqua, hai fatto, c'è stata grande determinazione, immagino anche impegno, fatica. Viola. Sì, sicuramente sì, per raggiungere il risultato ho faticato molto, mi sono allenata molto, però il nuoto in mare è stata la mia grande passione, il mio grande amore del passato, quindi mi sono data veramente con dedizione. Anima e corpo, come si dice. Anima e corpo, sì. Perché comunque forse ero più portata per lo studio, e difatti poi mi sono anche laureata in lettere, però la mia grande passione è stata lo sport. Senti Viola, qual è stato, mi rifaccio al genitore, che l'ascoltatore che ha telefonato prima diceva il mio figlio non ha grandi risultati, ha 6 anni in piscina, io non so se farlo continuare o no, ogni tanto gli dico non ti porto più, ecco i risultati. Ero un po' perplessa difatti, perché io, mia mamma mi ha sempre portato e fino a forse anche 15-16 anni di risultati non ne ha visti proprio. Non mi ha mai spronato in quel senso, perché le pressioni sono comunque sbagliate. E io così ho avuto modo di scegliere, ho scelto di continuare con determinazione, altrimenti probabilmente avrei smesso se avessi avuto una famiglia, una mamma o un papà. Troppo, ecco, troppo. Con il fiato sul collo. Dottor sì. Confalonieri voleva aggiungere qualcosa. Sì, intanto volevo salutare Viola Valli, con cui abbiamo lavorato insieme per tanti anni. Agli inizi, quando si trattava di continuare nonostante risultati non eccezionali e in piscina. Perché lei è stata una grandissima protagonista nelle acque libere in mare. Ecco, vorrei che ci raccontasse qualcosa rispetto al nuoto in mare e al nuoto in acque libere, che secondo me è una disciplina che potrebbe avere grandissime potenzialità, potrebbe interessare tantissima gente, quelli che normalmente fanno la maratona, le gran fondo di ciclismo o le lunghe distanze sugli sci da fondo, ma ancora ne attrae poche. E cosa c'è di bello nel nuotare in mare? Lancia pure un messaggio ai nostri ascoltatori per invitarli a sperimentare questo tipo di disciplina. Sì, perché molti sono spaventati probabilmente da questo elemento che non è la piscina, appunto, con le corsie, con le righe sul fondo, così, e lo vedono un po' quasi come un nemico con i pericoli. Invece penso che bisogna imparare a nuotare in mare sicuramente, perché ci sono dei rischi, però una volta che uno sa come muoversi, come gestire una nuotata, che comunque è differente, penso che dia molta più soddisfazione anche a chi magari non lo pratica ad alto livello, perché comunque non essendo mai uguale la situazione, è molto più vario del nuoto in piscina, che magari è un po' logorante dal punto di vista mentale, perché c'è sempre lo scontro col cronometro, cosa che nel mare non c'è. Più libero, quindi, Viola. Sì, è più dà più soddisfazione, poi anche il senso di superamento del limite c'è di più forse nelle acque libere, perché appunto non è solo, ripeto, uno scontro col cronometro, ma anche superare le difficoltà, quali le basse temperature piuttosto che l'onda, le correnti, però mi raccomando, non spingersi da soli e senza le dovute precauzioni, comunque senza sapere come fare nel mare, perché comunque le insidie ci sono, non ci si può improvvisare. Viola, grazie, è stato un piacere averti con noi. Grazie a voi, saluti anche a Franco che è stato mio medico, un bacio. Grazie ciao. Addirittura baci, dottor Confalonieri. Francesca, buongiorno. Buongiorno a lei. Che cosa dobbiamo dire? Si prende i baci, complimenti il dottor Confalonieri. Sì. Vabbè. Avrei bisogno di chiederle una cosa. Sì. Ascolti, dottore, mia figlia ha 37 anni e fa nuoto 2 volte alla settimana, alla sera, dopo il lavoro. Però lei ha un problema. Quelle notti lì non dorme. oppure fa molta fatica ad addormentarsi. Può esserci qualche problema o... Grazie, grazie Francesca. Le mamme anche di ragazze di 37 anni, mi piace questo, perché noi mamme continuiamo a essere mamme, a preoccuparci per le nostre bambine che sono donne e che non dormono perché forse fanno un'attività sportiva troppo vicino all'ora del riposo. Sì, dottor Confalonieri. Non è assolutamente un problema, siamo nell'ambito della fisiologia. L'attività fisica e quindi anche il nuoto libera una serie di ormoni, di endorfine, che attivano il nostro sistema cerebrale e quindi rendono più complesso il sonno. E quindi bisogna accettare questo tipo di situazione e sapere che nelle giornate in cui andiamo in piscina dormiremo un'ora, un'ora e mezza più tardi. Se riusciamo, riorganizziamo la nostra vita in quella giornata o nella giornata successiva recuperando queste ore di sonno, se no accettiamolo come una normale risposta dell'organismo all'esercizio fisico senza preoccuparcene minimamente. E provare ad andare la mattina presto? Bah, sì, mattina presto non crea problemi di sonno, bisogna vedere se trova la piscina aperta e soprattutto se ha gli stessi amici con cui va la sera. Allora il mio consiglio sarebbe: approfittiamo quelle serate anche per concederci la pizza e la birretta dopo la piscina, torniamo a casa un pochettino più tardi e magari tutto si va a ballare. Magari quello lo faremo più avanti. Comunque tutto si risolve con un benessere globale che cresce. Il nostro obiettivo, proprio quello che cerchiamo di raccomandare in questa trasmissione, è guardare al benessere globale. E il benessere globale è dato da tante componenti e quindi anche una corretta organizzazione della giornata in cui andiamo in piscina la sera. Ecco, ci siamo tornati insieme, abbiamo Giancarlo che ci chiama da Bergamo. Buongiorno Giancarlo. Buongiorno a voi e grazie di avermi richiamato. Senta, la mia domanda per il dottor Confalonieri era questa: io ho 43 anni, ho scoperto il nuoto da 6-7 anni, nuoto abitualmente un paio di volte alla settimana e quasi casualmente ho scoperto 2 anni fa che col cosiddetto salsicciotto o immobilizzatore delle gambe nello stile libero sono molto agevolato. Volevo chiedere se l'uso frequente di questo accessorio, chiamiamolo, può provocare con l'andare del tempo degli scompensi. A me agevola molto, ho un rendimento di circa il doppio con questo immobilizzatore, perché mi tiene a galla le gambe e certo. Ho un fisico molto robusto, sono 1,80 m per 85 kg. Grazie Giancarlo. Insomma, grazie, questo salsicciotto fa bene o fa male? Sì, aiuta? Questi sono quelli che tecnicamente chiamiamo pool boy e non salsicciotti. Vabbè, come li chiamate? Pool boy. E sono praticamente degli attrezzi in gomma che sostengono le gambe, come diceva correttamente Giancarlo. No, assolutamente, anzi sono uno strumento fondamentale per chi, e sono tanti credo, ha difficoltà a mantenere con naturalezza, con leggerezza, un assetto orizzontale nell'acqua. Infatti, ma tende a avere le gambe giù, che si abbassano. Esatto. A nuotare un po' in piedi. Bravissima. Questo è un problema frequente che si risolve col pool boy o col salsicciotto. E diciamo che non crea nessun problema, anche perché le gambe nel nuoto hanno un effetto propulsivo, cioè contribuiscono all'avanzamento in modo molto ridotto. È chiaro che nel momento in cui si utilizza questo strumento l'avanzamento sarà del tutto collegato alle braccia e quindi avremo un impegno muscolare esclusivamente della parte superiore, ed è altrettanto chiaro che il consumo energetico e quindi il consumo calorico per chi nuota con un obiettivo di dimagramento si ridurrà. Però per il resto non ci sono controindicazioni, anzi lo raccomandiamo a chi ha questa difficoltà tipica di arare il fondo della vasca con le gambe. Arare. È una parola che non dovrei dire. Io posso dire sassofrasso se vuoi. Me ne sono reso conto mentre lo dicevo. Ma... Allora, prima di salutare Lorella che ci chiama da Roma, andiamo al nostro consiglio di lettura. Grazie all'iniziativa di Internet Bookshop oggi potete ricevere a casa il libro che si intitola Il sorriso come terapia. Per riceverlo a casa dovete essere il primo ascoltatore a mandare un'email a esserebenessere@radio24.it col titolo del libro, recapiti e numero di telefono. E vi ricordo che proprio lunedì noi parleremo di sorriso, non tanto di denti quanto di mucose, gengive, lingua e saliva. Quindi tanto questo perché magari qualcuno di voi è interessato e magari si mette in collegamento con noi. In collaborazione con IBS.it. Lorella, buongiorno e benvenuta. Buongiorno, buongiorno a tutti. La mia domanda è questa. Sono la mamma di una ragazza adolescente che ha praticato per molti anni anche a livello agonistico ginnastica artistica e poi è stata scoperta in maniera del tutto casuale una scoliosi dorsolombare. E da lì sono iniziati i dubbi, cioè mentre prima si riteneva, almeno i diversi medici che abbiamo incontrato, il nuoto adattissimo alla scoliosi, in realtà sembra un po' più controversa adesso. E semmai, quale stile e semmai a quali sport, cosa ci consigli, dottor Confalonieri? Grazie Lorella, bellissima grazie. Voce tra l'altro Lorella, no? Grazie. Dottor Confalonieri, sì. Grazie. Allora, scoliosi e nuoto, a lei. Allora, sicuramente il nuoto è adatto perché la scoliosi, non tanto perché la corregge quanto perché non la peggiora e non la complica o non determina quei problemi, quei dolori che sono collegati alla scoliosi per chi fa altri sport. La correzione della scoliosi invece passa eventualmente da una ginnastica correttiva che adesso non è più tanto di moda, ma che forse dovremmo recuperare come valore proprio perché facendola fin da piccoli migliorerebbe la nostra situazione. Uno stile più di un altro? Sì, lo stile libero e il dorso forse più degli altri, ma soprattutto il nuoto per fare attività e restare in forma senza sovraccaricare la colonna e quindi avere i problemi che possono essere correlati alla scoliosi. Antonio ci chiama da Vercelli, buongiorno e benvenuto Antonio. Ah, buongiorno, dunque io ho 60 anni e ho tentato ripetutamente di provare a nuotare ma non ci riesco, un blocco psicologico penso, non lo so. C'è qualche trucco? Antonio, sì, c'è il trucco. La facciamo accompagnare dal dottor Confalonieri. Magari, una giornata insieme. Magari non da me direttamente, però sono disponibile. Ma proprio il concetto è corretto. Dobbiamo entrare in acqua accompagnati, cominciare a conoscere l'acqua camminando nell'acqua, magari insieme a una persona che ci conduce per mano e ce la racconta. E il momento in cui abbiamo imparato a conoscere l'acqua, a capire come l'acqua risponde alle socializzazioni del nostro organismo, possiamo gradualmente passare dalla posizione verticale a quella orizzontale, magari con dei supporti. Non esiste nessuno che non riesca a entrare in relazione con l'acqua anche tardi. Ritorno al mio paragone iniziale: l'acqua è come una donna, per qualcuno è più facile avvicinarsi, per qualcuno è più difficile, ma tutti abbiamo la potenzialità per entrare in relazione positiva con le donne e quindi anche con l'acqua. Dottor Confalonieri, non so, non ho parole, ma volevo chiederle questo. Non abbiamo risposto a che età però, per i bambini, è giusto iniziare a frequentare un corso di nuoto. Ce lo chiedono tante mamme e SMS, per cui 5 anni, 6 anni, aspettare allora che il bambino sia un pochino più grande, quando non si prende Raffaele Dore a raffica, eccetera. Che si fa? Molto rapidamente, fino a 3 anni soltanto per una nuova relazione con i genitori. Questo l'abbiamo detto. Dai 3 ai 6 anni per migliorare la propria psicomotricità in senso generale, quindi per imparare a usare meglio il proprio corpo in senso generale. Dai 6 anni in avanti per imparare a nuotare. Rispetto alla salute, tutte le età vanno bene, non abbiamo paura né dei raffreddori né delle influenze. Li facciamo da piccoli, ci abituiamo, li faremo meno da grandi. E in linea con noi ci ha raggiunto il professor Giampaolo Perna, direttore associato del Master Internazionale sulle Neuroscienze Emotive dell'Università di Maastricht. Buongiorno professore, bentornato. Ciao Nicoletta e a tutti gli ascoltatori. Professore, tra l'altro lei come autore del libro Psicofitness mi sembra la persona più indicata per commentare una ricerca che fa al caso nostro e che dice che il fitness migliora la memoria, aumenta le dimensioni del cervello, in particolare quelle dell'ippocampo, che è quella parte del cervello localizzata proprio nella zona mediale del lobo temporale che è associato all'emozione, alla memoria. Vero professore? Quindi assolutamente sì Nicoletta, direi che la cosa più bella è che è un'intuizione che nasce dall'esperienza storica, fin dai greci che l'esercizio fisico faceva bene, ma anche un po' tutta una serie di teorizzazioni. Psicofitness è un libro di un paio d'anni fa, ma di fatto viene sempre più confermato da questi dati, cioè l'esercizio fisico diventa talmente importante per il nostro benessere che, lo ripeto, come ho detto altre volte, dovrebbe essere quasi imposta per legge, no? Perché è come dire qualcuno che può scegliere se bere o non bere l'acqua. Sì. Qua si beve perché fa bene, punto. E sul cervello in particolare, al di là di quello che hai detto tu, aiuta addirittura a combattere alcuni disturbi, per esempio è dimostrato che sugli attacchi di panico ha un aiuto importante, sull'ansia generalizzata anche, ma anche sulla depressione. Certo, non li cura, quindi dobbiamo sempre avere una terapia vera, ma insieme, se aggiungiamo esercizio fisico, abbiamo questo miglioramento globale della salute mentale. Professor Perna, siamo in chiusura. Lei che sport fa? Nuota, va in bici, corre? Guardi, io disperatamente uso una cicletta, no? Sì. Cerco di usarla, proprio perché avendo scritto questo mi sono convinto che al di là del riposo e di tante belle cose dovute allo stress delle mie attività, devo mettere l'attività fisica, ed è una cosa che mi sono imposto e sto cercando di fare, anche perché è una bella fatica comunque, psicologicamente. Grazie professor Perna, e le auguro una buona giornata, grazie per essere stato con noi. Grazie a voi tutti, un saluto. Dottor Confalonieri, è tempo di lasciarci, ci ritroviamo venerdì prossimo. Senz'altro, grazie a tutti, a risentirci. Io vi aspetto domani a mezzogiorno con Questa casa non è un albergo, e poi lunedì come sempre il nostro appuntamento dopo il GR delle 11. Buona giornata.